spumeggianti e quasi vivi anche questa domenica. Andiamo in onda con D-Rockation 2.0. Noi siamo in Redeem, ossia Zazzone, Silvius e Pisani spumeggiante. Spumeggiante a differenza loro. A differenza nostra, è molto più spumeggiante. Tomba, il molto più spumeggiante Pisani. Sempre però con la regia di Nico Cappello, sveglissimo e infradito come ogni domenica. Per i più attenti di voi, più attente di voi, anche soprattutto visto che il pubblico femminile è quello che ci ascolta di più. Quello di Vanity Fair, ma per l'angolo di Vanity Fair solo per quello. Per i più attenti di voi, appunto, chi è stato attento, chi ci ascolta frequentemente, avrà notato che non siamo andati in onda la scorsa settimana per due motivi. Uno, perché diciamo l'argomento clou sarebbe stato quello che è poi la stata la tragedia di Genova con il crollo del ponte Morandi. Perché è crollato un ponte mentre eravate in Salento a scansare napoletani. È crollato un ponte. Non lo so se avete sentito. No, so, mi è parso di sentire. Potrebbe esservi sfuggita come notizia. Se vi è sfuggita come notizia, potete mettere su canale 50 Sky News 24. Esatto. Sicuramente in questo momento. Ancora parlando del ponte. Era un problema per tutti questo ponte. Poi hanno capito che i negri vincono sul ponte. E adesso sì, non esatto. Si parla più del ponte. E ne approfitteremo appunto per questa puntata, in questi blocchi di questa puntata, per approfondire la questione che da nave Diciotti. In realtà noi non siamo andati in onda, diciamo la verità, perché si aveva 39 di febbre e avevo anche la cacarella. E Pisani invece aveva solo cacarella. Io invece non volevo venire. Come vedete siamo molto professionali. Sempre qui dalle frequenze dell'internet. Questa è D-Rockation 2.0, la quarta puntata. Benvenuti. Wasting another E questi sono i Foo Fighters, Monkey Ranch del 1997, genere rock. Cappello, mi piace sempre di più la playlist di Cappello, soprattutto perché non mette i Radiohead. Siamo felicissimi per questo. I Radiohead, ricordiamo, sono i Coldplay di chi ha studiato. Praticamente, non potevo descriverli meglio. Questo è sempre di Rockation 2.0, primo blocco della puntata, e non potevamo partire con una rubrica che mancava a tanti e a tante. Signore e signori, è il momento della sigla di Gigi La Frotola. Eccolo, sei, oh Gigi, rotondo un po', oh Gigi, ma se tu vuoi sei un cerbiatto, lo so, ah, ma come fa, oh Gigi, dimmelo tu, oh Gigi, col tuo pallone a volare lassù, tutta la tua classe punta su di te, nella squadra tu sei grande re. Rione. La tua città ti chiama già Gigi La Frottola. Ed è lui il nostro Gigi La Frottola, protagonista di questa settimana molto intensa, perché come tutti sanno, tutti hanno letto, penso abbiano... È crollato un ponte. Il ponte, ragazzi, stiamo parlando, siamo andati avanti, diciamo, il ponte lo ricostruiranno, non siamo capaci di poterne parlare, non siamo competenti, forse Pisani competenti. Questa cosa, no? Io ho una competenza molto ampia e molto superficiale, quindi... Sei un po' di tutto, un po', poco. Quanto Bacubi, quanto basta. Invece parliamo della nave 18, perché è stata protagonista. Esatto. Di un attracco al porto di Catania con 177 migranti a bordo. Per i più distratti, più o meno la situazione è andata così: cioè attaccate la nave e Salvini comincia a dire 18. Scusi, ma perché dice 18? Ecco, un'altra cosa, si fa i cazzi sua. 19. In realtà era crollato il ponte e dovevano trovare qualcos'altro di cui parlare. Eh beh, e perché non parlare dei negri a questo punto? E hanno bloccato 170 negri, mentre gli altri 250, ricordiamolo, durano nel... Non so, stavolta hanno bloccato anche i marinai, diciamo, della Marina Militare, della Guardia Costiera. E infatti, perché la nave 18 è una nave della Guardia Costiera italiana, e appunto il ministro dell'interno italiano si è opposto al all'accoglienza, all'attracco. Ma l'attracco c'è stato, l'accoglienza di questi migranti, che per fortuna, diciamo, nelle ultime ore sono stati liberati da questa prigionia. Perché abbiamo inserito questo argomento nell'angolo Gigi La Frottola? Perché ovviamente il buon Gigi, davanti alle dichiarazioni del suo amichetto, non può certo starsi zitto. Il suo master. Cioè, però volevo dire che la prima impressione che ho avuto dalla nave 18, la prima sensazione, pur nella mia conoscenza estremamente ampia, è stata: cazzo, Don Ciotti è una nave. La nave di Ciotti sarà stata sequestrata alle mafie. Che ne so. Poteva essere. Diciotti, Di Maio, leggiamo da Repubblica, Salvini avanti, ma non attacchi a procure, perché a quanto pare Salvini è stato indagato adesso per un pochino di qua e un pochino di là. Okay, una botta qua, una botta qua. Salvini indagato, il ministro dell'interno, per sequestro di persona, sì, oltre che abuso d'ufficio e tante altre cose. Anche se in ufficio non c'è mai entrato, visto che è diventato diciamolo, grasso come né a Bruxelles né a Roma. Ma è in giro per Sagri, ragazzi, in giro. Io per non Sagri. Ne posso più delle sue tettine flosce su internet. Ma quanto è diventato ciccione, ragazzi, ciccione, per favore, non diamo l'importanza. Io ho le tettine flosce, non diamo l'importanza. Non mi faccio le storie su Instagram, proprio perché, ragazzi, ho le tettine flosce, ragazzi, caro non Salvini. Ha problemi, non soffre della prova costume, ragazzo. 18 di Maio, dicevamo, Salvini avanti, ma non attacchi a procure. CEI, che sta per... Comitato Estensivo Intergalattico. Eh beh, ci sta benissimo. Non si può fare politica sulla pelle dei poveri, soprattutto se neri. Soprattutto se neri. A chi gli chiede coerenza come Renzi, che parla di doppia morale, poi c'è lui. Vabbè, che non perde mai il vizio. Anco, ma dove stava Renzi? Sta facendo un documentario su Firenze in questo periodo. Si è dedicato alla con cultura. Con queste IE spiate. Il vice premier 5 Stelle replica: Alfano si doveva dimettere in quanto tale. Non lo so, se avete visto la sua diretta Facebook col filtro bellezza messo al massimo, in cui si crede simpaticissimo mentre dice è più acceso di Barbara D'Urso. Si sente Adriano Celentano. Si sente. Sì. Il ministro dell'interno posta su Facebook una foto con un boccale di birra e in mano la didascalia un brindisi a chi indaga. Berlusconi si schiera con il titolare del Viminale: autorità giudiziaria non interferisca. Quindi l'amichetto, un argomento molto caro. Certo. ci dovrebbero essere delle nuove dichiarazioni, forse. Sì, Salvini ha dichiarato qualcosa di delirante. Cosa? Che non ci mette niente a far cadere il governo, a tornare ad elezioni, a prendersi l'Italia. Quasi letterale. Quando l'ha detto? Quando l'ha detto? Subito dopo il delitto Matteotti. Ciao. Brown, You Can Play That Game, un brano del 1992, genere dance, per chi non l'avesse intuito. Dance. Ben specificato dance. Sempre nella scaletta. Di Location 2.0, sempre con la regia di Nico Cappello, che ringraziamo, baciamo, abbracciamo, quanto è bello. E continuiamo con le notizie della settimana, notizie in realtà sempre giornaliere, perché in realtà diamo notizie di queste ore. Però, essendo ieri, domenica, e non essendo successo un cazzo, essendo agosto, sono notizie della settimana. E quindi diciamo, tutto quanto è compressato, esatto, nella domenica. In realtà siamo solo dei cazzulloni, perché durante la settimana ci diciamo sempre: oh, questo dobbiamo dire, questo dobbiamo dire. Non lo diciamo mai. Facciamo un salto in Irlanda, perché in Irlanda c'è la visita del Papa in questi giorni. Una è andato a trovare Topone. Salutiamoci, Topone. È un nostro amico che è in Irlanda. No, in quanto pare è andato a fare una sorta di mea culpa per i casi di pedofilia, che non sono pochi in Irlanda, diciamo, sono accertati più di 500 casi. Quasi. Casi di pedofilia nel clero. Sì, sì, incredibile. Cioè, volete dirmi che lì nei seminari con i bambini, tutti uomini, negli spogliatoi ci sono casi di pedofilia? Sì, sì, quanto pare sia incredibile. Incredibile. È veramente un buon mondo passato. Hanno semplicemente interpretato male, lasciate che i bambini vengano a me. Invece vengono loro. Vengono loro, sì. No, qualcuno si potrebbe offendere da casa, troppo black humor. Pedofilia, il Papa in Irlanda, imploro il perdono per scandalo e tradimento, decisi in ricerca e giustizia. Nel giorno del suo secondo, diciamo, suo secondo giorno di viaggio in Irlanda, il Papa torna a parlare dei minori che hanno subito abusi e dal santuario di Knock. Penso che la pronuncia irlandese, tu sei stato in Irlanda, diamo anche risalto alle altre cose che ha detto il Papa, perché così decontestualizzata notizia. Il Papa ha detto anche che i veri pub stanno in Irlanda, non qui a Molfetta. Comunque dal disco la santuario di Knock fa pubblica ammenda. Ieri sera ha incontrato anche 8 vittime delle violenze perpetrate per anni nelle case di Magdalen e ha detto ai suoi sottoposti: cari vescovi, il pene nei ragazzini no. Per favore no. Fra vescovi sì. Cardinali tanto, soprattutto sì. La sera, esatto. Quei bambini con i ragazzini, quante volte ve lo devo dire, il pene nei ragazzini no. Quindi facciamo un appello a tutti i preti che magari vogliono mettere il pene nei ragazzini. Non si fa, neanche dopo la cresima. Perché non è detto che dopo la cresima siano pronti per prendere il pene i ragazzini. Quindi, esatto. Per favore, vi ripetiamo, perché magari c'è qualche prete all'ascolto, che il pene nei ragazzini no. Filter, The Best Things, anche spazio al metal, anni 90. Sì, mentre ascoltavo questo pezzo mi sono cresciuti dei pantaloni della Energy con la catena. Forse anche una felpa Magilla da qualche parte, ho visto. Siete sempre sintonizzati su D-Rockation, che per chi avesse ascoltato il blocco precedente parlavamo del Papa. Volevamo ripetere l'appello di prima. Bene, bene. Dentro ragazzini, no. Ripetiamo. Redim per il progresso. Noi siamo assolutamente per il progresso. Ne parlavamo con Silvio stamattina, Pisani, perché ieri siamo andati a vedere un concerto. Stamattina siamo tornati prestissimo o tardissimo, che dire, dipende da come la vedi. Abbiamo acceso la TV, ci siamo sintonizzati su Sky News 24 a casa mia, e abbiamo detto, diciamo, nel video wall sotto, diciamo, la notizia del Papa, e improvvisamente è partito il servizio. Parte il servizio e ascoltiamo il Papa che recita il suo Angelus in Irlanda, sono davanti a una folla di persone. Però c'era un problema, c'era una cosa che ci chiedevamo io e Silvio. Ma parlava in italiano? Sì. Perché il Papa, perché? Che è argentino, va in Irlanda, in cui si parla inglese e gaelico, a recitare l'Angelus in italiano? In italiano. José Mario Bergoglio, perché? Perché parla in italiano? Perché te intendono tutti gli abitanti dell'Italia e in Irlanda. E quindi dici per gli emigranti. Va bene. L'ipotesi è che o lo dice in tutte le lingue del mondo, che dovrebbero essere 160 se escludiamo i dialetti. Ma non c'era l'esperanto una volta come lingua che volevano inserire? Nella mia tutologia potrei parlarti dell'esperanto. Io ho un mini dizionario delle giovani marmotte a casa sull'esperanto, lo dovrei rispolverare da qualche parte. Va bene, torniamo un po' alle notizie invece di casa nostra, perché siamo in Puglia e andiamo a Castellaneta, zona Taranto, perché a quanto pare stamattina c'è stato un blitz della Lega contro gli ambulanti in spiaggia. Le vere emergenze, l'annoso problema delle collanine in spiaggia. Ovviamente c'è ancora un po' di speranza in questo paese. Questo perché la cavigliera di Salvini si era rotta. Sì, allora hanno deciso di usare, di passare le maniere fuori. Hai ragione. Bravo Pisani, vedi che sei tutto, sei sempre informato. No, è nudo Salvini, quindi si vede. È sempre nudo. A petto nudo. Mangia polpi crudi, non lo so. Comunque, sembra. Leghisti in spiaggia, per fortuna i bagnanti a quanto pare si sono ribellati ed è partito, diciamo, una sorta di urlo fascisti insorti contro questi esponenti della Lega. Una pattuglia di leghisti organizzato, leggiamo, da Repubblica. Perché stanno i leghisti a Castellaneta, soprattutto? Si organizzano già in pattuglia. Pattuglia di leghisti ha organizzato una manifestazione itinerante in spiaggia guidata dal parlamentare barese Rossano Sasso. Ora, su questo noi vorremmo anche, diciamo, fare un invito a tutti i baresi. Barese, leghista barese, vattene a Varese. Bravo, bravissimo. Questo, diciamo, era quella che volevo dire. Ma tutta la spiaggia ha difeso, appunto, i migranti, e sono volati anche gli insulti. Brizzino e con Salvini in spiaggia a Castellaneta Marina, una pattuglia di leghisti ha organizzato una manifestazione, appunto, itinerante, guidata da questo Rossano Sasso. Le nostre spiagge le vogliamo piene di turisti e non di abusivi di giorno e stupratori di sera. Automaticamente gli abusivi, ragazzi, di giorno arrotondano stuprando la sera. Ma questo è perché loro, non avendo la partita IVA, arrotondano così, è normale. Ma soprattutto se togli gli abusivi, i turisti che cazzo comprano? Questo ce lo chiediamo un po' tutti. Minorenni. Probabilmente. Poi si metteranno a stuprare, esatto, i turisti. Ma che sono preti questi turisti? Anche i preti fanno il bagno. Vabbè, a quanto pare, diciamo, c'è ancora speranza in questo paese, perché i bagnanti hanno difeso gli ambulanti presenti in spiaggia, li hanno cacciati in malo modo. Ma sì, devo dire che fra Castellaneta e Catania ieri mi si è scaldato il cuore. Un po' di speranza. No, visto un po' di umanità dopo l'estate più terribile della seconda dopoguerra in avanti, diciamo. Ma comunque. Vabbè. Così è partito un coro contro i salviniani, continuiamo a leggere: fascisti, squadristi, razzisti, via da qui, non vi vogliamo. La discussione accesa tra leghisti e bagnanti è finita tali insulti. Siete tutti del PD, aggregato. Tutti. Perché automatico. È diventato un insulto, è diventato il male assoluto. Guarda, a me se qualcuno è stato del PD e deve fare parte della vita, penso comunque per insulto anche in tempi non sospetti. Quindi, diciamo, Quindi qualcuno ha gridato, della Lega ha gridato l'indirizzo appunto di alcuni bagnanti, siete del PD, che avevano sotto braccio una copia di Repubblica. Sotto braccio una copia di Repubblica, sei del PD in automatico. Perché altrimenti tu devi girare con una falce e un martello. Esatto, e armeggiarle, capito? Ma vogliamo parlare un attimo del PD? Parliamo un attimo del PD. Allora, il caro Emanuele Fiano, visto che siamo in clima, quello lì che doveva firmare la legge contro insomma le derive fasciste in Italia, ha appena scritto questo tweet. Vai. Il nostro abbraccio all'agente di polizia ferito oggi alla nave Diciotti. Speriamo si rimetta presto. Nessuno immagini che si possa portare solidarietà a chi è sulla nave cercando lo scontro con la polizia. La nostra protesta sarà sempre pacifica nel rispetto della legge. Ora. Questo è il PD. Ma la legge voleva che sbarcassero. Sì, sì, questo... la legge stava anche picchiando selvaggiamente delle persone. Sì. Poi gli hanno mandati a refertarci 5-6, dai, pigliate 2 settimane, dai, stai tranquillo. Vabbè, ma tanto ci pensa il giudice Dredd alla fine, esatto, a far giustizia da solo. José Mario Bergoglio si pronuncia adesso, ma questo perché lui non solo è gesuita, lui era al marketing. Non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri. In questo caso le provvidenze di Dio si rende... Another one of them old funky sacred kilts then. You know what I'm saying? And it goes like this. Hey, don't miss out on what you're passing. You're missing the hooter of the funky Buddha. I know that I'm your fucked up style to get wicked. So come on, it's like we're starting to kick it. Cause we're like the outlaw style. And what suckers are hiding. Jump behind the bush when they see me driving by. Hanging out the window with my Magnum. Taking out some putos, acting kinda local. I'm just another local kid from the street getting paid for my vocal. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't because nothing is coming from it. I'm not gonna waste no time fucking around my gastric humming. Humming, coming at ya. Girl, you know I had to get ya. Time for some action, just a fraction of friction. I got the clearance to run the interference into your satellite, shining a bad light. Sing at the gap, and I know that'll get you right. Here's an example, just a little sample. I work at this killer man. One time tried to come in my home. Take my chrome, I said, yo, it's on. Hey, clever son, or your ass. Like my comb, then I watched the rookie pass. I didn't have to blast out, but I did anyway. Young punk had to pay, so I just killed a man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. Here is something you can't understand. I work at this killer man. You can't understand. questi erano i Cypress Hill, I Could Just Kill a Man, 1991, un pezzo rap, uno dei miei preferiti dei Cypress Hill, devo dire la verità. Io, è stato sempre uno dei miei desideri andarli a vedere dal vivo, nessuno mi ha mai voluto accompagnare. Però... E non niente, volevo dire che volevo esprimere perché noi eravamo tutti metallaria. Ero sempre quello che non capiva quale direzione prendere, ma la direzione che ho preso è fare un programma con voi. E devo dire la verità, mi sto divertendo tantissimo. Ed è stata la scelta sbagliata. Come sempre, come tutte quelle della mia vita. Va bene, torniamo un po' alle notizie. Diciamo, parliamo di lavoro, quello che manca, ma quello che anche c'è, perché abbiate speranza tutti quanti, prima o poi. Per chi non ha lavoro in questo paese ci sarà lavoro per tutti. Basta, la pensione. Basta solo aspettare i 66 anni. Come il nostro amico assunto a 66 anni dice: finalmente il posto fisso, ora potrò andare in pensione. Il grande desiderio. La settimana dopo, immagino. Un po' di tutti, diciamo. Andiamo a prendere la notizia di Repubblica che avevo aperto, ma mi si è chiusa così improvvisamente. Quanto pare l'amico che si chiama, vi dico subito. No, io non la cerco, Sergio, quindi puoi continuare a cercare. No, la cerco io. Mentre la cerchi. L'ho trovata. Ex soldato dal 2010, dopo una vita di lavoro, era diventato precario della scuola e ora appunto potrà smettere già fra 3 mesi, ma stavolta non rischia nulla. Smette domani. Quindi va bene, il posto fisso. Arriverà a 3 mesi dalla pensione, quindi non c'è. Io sinceramente non perdete le speranze. Sì, ma io sinceramente non rischierei mai di lavorare comunque. Non prenderei mai il rischio. Ma poi diciamocelo, a fare i soldi lavorando sono buoni tutti. Ma che cosa veramente da borghesi. Il posto fisso arriva a 3 mesi dalla pensione. Giovanni Pellegrino, 66 anni compiuti, appunto ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato come bidello in una scuola di Torino e ora, anche se già prima di Natale potrebbe godersi il meritato riposo, aspetterà il settembre del prossimo anno per restare a casa. Sono stato soldato nel 2010. Sai come ti rilassi a dare Jessica Cassini? Sì. Pensavo mi avrebbero mandato in pensione poco dopo che ho interrotto il mio rapporto di lavoro con la cooperativa dove facevo il magazziniere e invece con le leggi di Sacconi prima e di Fornero dopo mi sono ritrovato all'improvviso senza un impiego e senza pensione. Sposato con 5 figli, il più vecchio ha 42 anni. Merda. Pellegrino ha ripreso a lavorare come bidello precario nelle scuole del Torinese solo nel 2013. Era pesante, tutti i miei figli lavoravano e io no. Che frustrazione, ma prima di restare a casa non ci pensavo proprio di lavorare per lo Stato. Ma perché? Ma non hai capito niente. Scusate, non hai capito nulla, ma come? Tutte le statistiche dicono che tutti ambiscono a quello. Non era mai stato tra i miei obiettivi, confessa. Però devo riconoscere che la scuola il posto statale. Ma io non riesco a chiudi questa notizia di merda. Basta. Torniamo ai migranti. Cioè, non è che siamo del PD. Perché devi dire sta cosa? Non siamo del PD. Sì, semplicemente vogliamo del rap decente. With the girl, them at me a fit. Ooh, one round a front and two in a the back and out asylum where we. Ooh, step on the spot, appear a true a chop and you will crowd a ball out. Ooh, take it from the top if you want hear it back and I may hear you all a ball out. Ooh, so everybody shout out. Lady, me just want to hear you scream out. From your nose to your heart, girl, no doubt. Brother, they find your feet when you walk out. Can't just hear you, we have a wall out. All bad, my pussy, you can fall out. Who back in the world from where you crawl out. All right, too much of you, take a time out. So me circle the block in and me just happy with the girl them at me a fit. Ooh, one round a front and two in a the back and out asylum where we. Ooh, step on the spot a fear a tune a drop and you will crowd a ball out. Ooh, take it from the top if you want to hear it back and I make me hear you all about. Ooh, right. And the ladies getting wild on the dance floor. All the girls on the floor. jerk of the back in and me just happy with the girl them at me a feet. Pull up. One round a front and two in a the back and out asylum where we pull up. Step up now this part appear a tune a drop and you will throw the ball out. Pull up. Take it from the top if you want to hear me back and I make me hear you all about. Pull up. With the girl them at me a feet. Pull up. One round a front and two in a the back and out asylum where we pull up. Step up now this part appear a tune a drop and you will crowd a ball out. Pull up. Take it from the top if you want to hear me back and I make me hear you all about. Pull up. So everybody shout out. Lady me just want to hear you scream out. From your nose say you hot girl now now. Bring it up on your feet when you walk out. Can't just hear you we a go all out. All bad mind pussy you go fall out. Go back in a the one from where you crawl out. All right too much of you take a time out. Mr. Vegas pull up, genere dancehall, dice Cappello, 2004. Mettiamo anche i pezzi belli pompo oramai. Io purtroppo c'è, c'ho questo piccolo. Ma è proprio un genere, dancehall 2004. Sì, sì. Sì, perché poi c'è il dancehall 2005 che è diverso. Dancehall 2004 diciamo. Sono quelle che si andavano a fare in campagna seguendo la padella romana. E quelle 2005 invece quelle già nei club. Quelle in campagna club con le tuercatrici. Eh sì, con le trombe. Pull up. Se l'aveste capito, queste di Location 2.0, noi odiamo il reggae, ma lo mettiamo perché a nostri ascoltatori questa malattia che ogni volta che parte questo tum, pati, tappum, mi si spegne il cervello completamente. Infatti, non pensavo di stare. Insomma, ci viene voglia di fare quello che ha fatto il protagonista della prossima notizia, però al contrario, diciamo. Esatto. Torino minaccia la Lega anticaccia inneggiando al Duce. Il TAR gli nega il porto d'armi per il fucile. Ma va, c'è un po' di sospetti che non stia molto bene il ragazzo. L'uomo aveva inviato agli ambientalisti la foto di un capriolo ucciso. Bene. Scrivendo: non provate a fermarci o diventerete un trofeo. I giudici non è affidabile. Ma dai, ma dai. Un uomo così paccato. Allora la libertà d'espressione dei coglioni. No, no, no, no. Assolutamente. 12 anni fa era stato denunciato per aver inviato un'email minacciosa, culminante nell'esclamazione "Viva il Duce!" Mm-hmm. E da alcuni attivisti della Lega per l'abolizione della caccia. Ad alcuni attivisti, scusate. Ed è anche per questo motivo che ad un piemontese le autorità di polizia hanno negato il rilascio della licenza per il porto di fucile a uso caccia. L'uomo ha presentato un ricorso al TAR, cioè ha avuto anche il coraggio, cioè, di presentare un ricorso, respinto. È stato ovviamente respinto. Il messaggio, di cui in seguito si occupò un giudice di pace, conteneva in allegato l'immagine appunto di un capriolo morto con accanto un fucile. Questa, era il testo, è la fine che farete voi protezionisti di merda. La caccia e il piacere. Protezionisti di merda. Protezionisti de che? De che, de cosa? Degli animali probabilmente, non lo so. La caccia e il piacere dei re. E il re dei piaceri. Quasi romantico. Bravo. Perciò attenti, non provate a fermarci. Ci. E lui è a fermarci, plurale maestà. Lui è plurale, sì, sì. O sarete voi il nostro prossimo trofeo. Ah, proprio così. Viva Diana, viva il Duce. Ma viva Diana, viva la principessa Diana. Sì. No, è bello che conclude, per dare forza alle sue tesi, conclude con l'esortazione a un personaggio immaginario, sì, e ad uno che è stato sparato e appeso per i piedi. Esatto. Ottimo accostamento, ottimo accostamento. Di Rockation 2.0 e a favore dell'abolizione del suffragio universale. Cowboy Sack, hermano, uno stoner rock di quelli che ci piace, quelli di John Garcia, molto, i nostri preferiti. Dopo la serata di ieri anche, devo dire, Silvio ci stava questo pezzo. Ricordiamo a tutti, siamo stati al Freak Out Festival, tutti e tre. Barletta. A Barletta. Non seguite le indicazioni del navigatore? Assolutamente, come ho detto, al Bob, al Basket on the Beach, in zona Ponente. Una serata molto bella, abbiamo ascoltato Bluestone Valley, poi c'erano i Rainbow Bridge, che erano i padroni di casa. Salutiamo Fabio, il nostro carissimo amico, follower ed ascoltatore. E a chiudere gli Ossuari, che non hanno chiuso in realtà, perché poi diciamo i nemici del divertimento, esatto, sono arrivati i nemici del divertimento, e le cape d'ingesso hanno, diciamo, detto basta ragazzi, il rullante è troppo forte, quindi basta il rullante, state disturbando le seppie. Vabbè, comunque è stata una bellissima serata nonostante questo piccolo imprevisto. E insomma, noi lo stoner rock anche in The Location ci piace metterlo sempre. Torniamo diciamo sulle le notizie generali anche dal mondo, perché a quanto pare il Bolivar Sovrano, così che si chiama, bisogna aiutare. A me non piace dire ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto. Vabbè, sì, infatti, per chi ci ha ascoltato, per gli attenti ascoltatori, no, due puntate fa, allora, oramai già. Non pronunciarlo in maniera maccheronica, è il Bolivar Sovrano. Pronuncia tutti come il Papa, tutti come Papa Francesco. È il Bolivar Sovrano. Mi fai, non so, Pablo Escobar, mi fai l'imitazione di Pablo Escobar? Tienes che fare una rielta. Non se ti sembra, Papa Francesco. Comunque. Plata o plomo, dice il signore. Ok, vabbè, è uguale, è identico. Beh, l'aveva detto Pisani nella sua rubrica l'angolo del Bitcoin. Eccolo di Pisani. Qui, sì, l'ho trovato. Carta igienica a 2,6 milioni di bolivar. I soldi pesano più del cibo in Venezuela. E in Venezuela, a quanto pare, la liberalizzazione del mercato sta appunto lanciando una nuova moneta che... ma soprattutto... Pesa, cioè, c'è più carta nel denaro che nella carta igienica. Esatto. Quindi, esatto. Potresti pulirti direttamente il sedere. Con sono già sagomati, stanno là, li prendi come delle salviette. Se costa così tanto la carta igienica. Liberalizzazione del mercato, la benzina non vi diciamo neanche a quanto è arrivata. Sono tutti i dati che Pisani potrebbe dare molto meglio di me. Detto questo, perché vediamo questa notizia? Perché quando si parla di America Latina, no? Quando si parla del sentimento, di quello che si prova per la propria terra di origine, no? Ci viene da pensare soltanto alla nostra amica, all'amica che è protagonista di una saga, la saga di Luisa. Sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde estará. ¿Por qué? Luisa? Questa la so, questa la so. Com'è che fa? Quando Bolivar. Quanti Bolivar per la carta igienica tu spenderai. Perché parliamo di Luisa? Luisa è la nostra protagonista di questa saga, per chi ci avesse ascoltato sempre nelle scorse, esatto, puntate. Ormai dura da tempo. Noi la seguiamo. Luisa è un nome totalmente inventato. Una voce, diciamo, autorevole. Una storia, una voce ormai autorevole. Diciamo una ragazza che ha riscoperto la sua appartenenza storica, geografica, fisica. Le proprie radici. Latino America, per la precisione in Venezuela. Sì, molto legata. Molto legata. Tant'è che, diciamo. Dove, parentesi che non c'entra un cazzo, c'era l'altro ponte Morandi, crollato nel 67 perché gli è andata addosso una petroliera. Un po' sfigato. Non è Morandi di dai che ce la fai. No, è il contrario. Invece, in Venezuela, abbiamo detto le notizie appunto prima economiche. Lei si è esposta, Luisa, in maniera netta. Sì. Dura. Con il suo post, ricordiamo, Maduro Vattene, che diciamo, quello che ha fatto partire la narrazione di questa storia. Oggi andiamo a rivedere il suo profilo Facebook, che è aggiornato, sì. E a quanto pare la sua immagine di copertina oramai è la bandiera del Venezuela, cioè l'appartenenza è molto legata, è legatissima, molto legata, oramai a questa terra. O l'ha lasciata dai mondiali. è rimasta, cioè, c'è rimasta un po'. Oppure diciamo, sì, sta adesso lei esprime la sua indignazione condividendo gli articoli delle Iene, un'autorevolissima fonte di informazione, dove insomma le fake news non viaggiano assolutamente. E quale notizia è andata a condividere la nostra Luisa? Attentato contro il presidente Maduro durante un comizio in diretta TV. Per capire la povertà estrema e il livello di violenza del Venezuela, vi riproponiamo il reportage di Gaston Sama. È Gaston Sama, che è collega Gaston Sama, che collega venezuelano Gaston Sama. Che per carità sarà vero, però una campana è una campana. Ascoltiamone un'altra, sì, anche sì. Comunque. Insomma, come se volessimo informarci su Cuba unicamente dalla voce di Granma. Sì. Vabbè, Luisa, insomma, se ci stai ascoltando, se sei lì, se segui la tua storia, che noi seguiamo in maniera appassionata, noi diciamo: Luisa, battiti. E tu ci risponderai live. Still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this thing ting. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana round the corner, them juggling. One madman get him foot straight out of the garbage bin. Aye. On the white sun, concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community, get washed out by a bloodstorm. Every weekend, same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. Perfect boobs, them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Sempre reggae, ancora continuiamo a capello con questo reggae. Questo è l'Albo Rosi, Kingston Town, dal 2008 questo pezzo. Sghibidi bong dong, sghibidi dong bong, dong gong, dong gong, sghibidi dong gong. Si nota che non ci piace il reggae. Però a te piace la canna. Ma la canna non è rigorosamente, diciamo, aducibile e collegabile al reggae necessariamente, bensì allo stoner. Esatto, quindi, esatto. Quindi sono... Se ti fumi le canne pregando già,

You are standing on my neck, Splendora, oh, Splendora. Splendora, Splendora, Splendora, Splendora, Splendora. Grunge Alternative Rock 1995. Per i più nostalgici, questa era la sigla del cartone animato Daria. Esatto, esatto, sì. Lo dicevamo prima fuori onda. Io lo conosco giusto così, non l'ho mai visto. Ma di che parlava Daria? E della classica ragazzina delle superiori che odiava il mondo, odiava il misantropa. Introversa, sfigata, con la quale si solidarizzava. Dovrei vederlo, ho sbagliato a non guardarlo. Che tanti danni ha fatto nelle trentenni di oggi. Esattamente. Ricordiamo. Anche se mai quanto Amelie, ragazzi. Cioè, no, mai quanto. Posso dire una cosa? Tanti danni quanto Amelie. Mai quanto Frida Kahlo. Ma vabbè, l'ho detto, ragazzi. L'ho detto, fermatevi. L'angolo del maschilismo di Però non mi sono mai nascosto su questo, l'ho sempre detto come lo pensavo. Come la pensavo lo diciamo anche noi, perché noi siamo un programma attento all'ecologia. Pure anche tu hai baffi. E che significa? No, non ce li ho più adesso i baffi. Faccia, ma sembri nudo. Non ci possono guardare, ho tagliato la barba e la gente non mi riconosce per la strada. Esatto. Ma perché devo parlare dei fatti miei? Io voglio parlare invece del nostro programma, che è tanto legato all'ecologia, caro Visani, mm-hmm. caro Silvio e caro Cappello che si è alla regia. Perché noi vogliamo bene al nostro pianeta. Tanto bene che un quarto di questo collettivo ha comprato un'auto ibrida. Esatto. E adesso che chiediamo all'angolo dell'ecologia di Pisani? Perché oramai Pisani è tuttologo, esatto, diciamo. Esatto. Ma perché mi sono documentato prima su tutti i vantaggi che porta a dare respiro a questo pianeta. Ok, però non anticipare niente, perché dovremmo mandare almeno una sigla. Questo è un po' bullismo dall'alto dei vostri puzzolenti diesel multijet. Adesso non cominciare, Pisani. Io ho una GPL. Io voglio fare una GPL. No, io sono una benzina sporco. Bello. Il punto è che non ho, diciamo, la voglia di appicciarmi una finanziaria come hai fatto tu, Pisani. No, ho fatto un coupon. Vabbè, ma al di là di questo. Ma comunque, infatti, raccontaci come funziona un'auto ibrida, perché io sono convinto tuttora che funzioni a scorregge. Cioè, tu quando ti muovi per la strada, quanto salvi questo pianeta? È come se tu, allora, esatto. Silvio, immagina che l'auto ibrida sia quando fai accoppiare una benzina e una a gasolio. Esatto, ed esce l'auto ibrida. In realtà non funziona proprio così, ma ci andiamo vicini. Okay. Perché c'è l'ibrido benzina combustione interna, sì, che unisce un motore endotermico. Ok, come vi piace? Endotermico. È bello come te. Endotermico. Ha un motore elettrico. E quindi, ok. Quindi... Brushless. Spesso brushless. Detto brushless. Sì, fa figo. Okay, brushless. Questo qua, il motore elettrico va in sostegno oppure va a bassi regimi quando, sì, il motore endotermico consumerebbe di più. Scatta il motore elettrico che sfrutta l'energia recuperata in frenata. Incredibile. Dal mezzo, un po' come la Formula 1. Quando freni si ricarica, sì, la batteria con, okay, una dinamo, okay. Quando acceleri, quando riparti, eroga questa energia consumando meno carburante. Fantastico. E io salvo il pianeta. E in tutto questo, io e Elon Musk. Quanti coniglietti nani non muoiono grazie alla tua auto ibrida? Non muoiono qui, perché dove le hanno fatte, esatto, le auto ibride muoiono tutti, ammazzati dal litio, anche chi sta scavando questo litio. E soprattutto io l'ho fatto per una sensibilità ambientale, perché so bene che dopo 150.000 chilometri ammortizzerò l'investimento dell'auto ibrida. Quindi per il primo mese viaggiamo con gli stessi consumi. Assolutamente. E poi l'altra sensibilità ambientale è che non pago il bollo per 5 anni. Quindi fate anche voi questa scelta, come ha fatto Pisani, salvate il mondo e uccidete i coniglietti nani. D-Rocation. Vitalik, Kumbara Madario, My Friend Dario, Electropop del 2005. Wemba Dario Bell. Wemba Dario Bell. Una volta è venuta qua a suonare Vitalik. Quindi io la conosco Dario, solo per questo. Siamo Dario. presumo con Dario. Perché è l'amico Dario. Questo è sempre di Location 2.0. Noi siamo sempre qui a proporvi le notizie, ma anche a darvi un, diciamo, uno spaccato di quella che è la nostra storia, della nostra formazione anche politica. Perché certamente, insomma, certamente. Ci hanno rubato un po' un idolo. Ecco, perché prima ci hanno tolto dei simboli. Prima di diventare un ideologo, un teorico, anche voce autorevole del Movimento 5 Stelle. Sì, sì, sì. Lui, l'indiscusso Jerry Calà, era per noi, diciamo, una fonte di ispirazione. Sì, io voglio ricordare i primi anni 2000, in cui per qualche motivo assurdo il numero di telefono originale vero di Jerry Calà girava nella scena punk romana e italiana, e circa ogni volta, ad ogni festa, alla fine dei concerti, si chiamava in collettività Jerry Calà, che lui rispondeva sempre l'oracolo, sempre insultandoci in tutte le lingue del mondo, ma era lui, ragazzi, cioè, io ve lo giuro. Perché diciamo questo? Perché noi, che siamo gente di un certo livello e che vogliamo bene, non rinneghiamo quello che il buono ha fatto, no, assolutamente, e lo riproponiamo, perché vorremmo parlare con Gigino, con chi. Allora, scusate, 3355 855 0855. per chi volesse, insomma, prendete appunti. Noi invece vorremmo non riciclare, ma riproporre quello che potrebbe essere il perfetto inno del Movimento 5 Stelle. Quanti ricordi! Bellissimo, bellissimo. Noi lo proponiamo a tutti, Gigino, Fico. Ma non sentite taverna. Già il calore della piazza? Com'è fresca, è fresco come pezzo, è sempre verde. Io sento già il calore della gente che si raduna in piazza con gli stendardi del Movimento 5 Stelle. Cantando Lady Godiva e la sigla di Professione Vacanze. Noi la riproponiamo, ma perché diciamo questo anche? Perché col brano che stiamo proponendo ritorna anche in auge uno che era un mito, un sex symbol di Professione Vacanze. Ricorderete tutti, interpretava Caramella in Professione Caramella. Vacanze. Io riconosco tutte ste anche Caramella. Le repliche degli anni 90, tutte memorie. Ce l'ho su un DVX tutto Professione Vacanze, funziona ancora, gira ancora per sei puntate, se non ricordo male. Sei puntate. Alla fine è stato là che i 5 Stelle hanno imparato e hanno capito come funziona il mondo. Come faceva al villaggio Cala Corvino di Monopoli. Geja, grandissima interprete di Caramella, sta ritornando in TV e tutti aspettavamo questo grandissimo momento, magari strizzando anche un po' alla politica, ragazzi. Non si sa mai. Il ritorno di Geja è previsto in una fiction di grandissimo livello. Sì. Rosy Abate. Ah. È bellissima, grandissima. Io pensavo che si chiamasse lei Rosy Abate. No, veramente. L'hai mai vista? Pensavo si reincarna. Perché dice ritorno in Rosy Abate. Pensavo si reincarnasse. No, esatto. Ecco, ci fosse stata un'altra sostanziazione. È un problema del titolista di Repubblica. In realtà noi consigliamo la visione di Rosy Abate, soprattutto per l'interpretazione della protagonista di Rosy Abate quando piange. Ci sono dei bellissimi collage su internet, andatevi a controllare. Invece Geja aspetta di tornare anche in TV, non soltanto con Rosy Abate, perché arriverà a corteggiare per il trono di Maria De Filippi Giorgio Abate. No, non è Giorgio Abate, è Giorgio. Re Giorgio. Non sono informati. Ora, sicuramente il ritorno di Geja in TV non è soltanto, come dicevamo, un ritorno soltanto puramente di spettacolo, ma una strizzatina alla politica, perché magari potremmo proporla come ministro delle pari opportunità, solo che cambierà nome, diventerà in Uomini e Donne. We'll be right back. quando ci sono i Disfear torniamo anche giovani, sempre giovani, molto, molto giovani. Mi è cresciuto un dread ossigenato. sei tornato improvvisamente a Crispiano. E il dread ossigenato sta chiamando Jerry Calà. Questo diciamo è sottile. Ho anche un ascesso al piercing. Ma beh, erano tempi fantastici. Meno male che c'era gente che non ti conosceva, di quelli che ti frequentano ora non ti conoscevano all'epoca. Era Demons, un genere definito crust punk, per chi non lo sapesse a casa. Adesso lo diciamo perché magari qualcuno non lo sa davvero. Sì. E l'anno era il 2003. Di Beat. Di Beat per la precisione, sì, è vero, non di Beat. Sì, quel giro di batteria che fa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa tuppa. Questo è l'angolo della musica di Silvio, l'angolo del tuttupa di Silvio. Siccome non abbiamo notizie da dare, Silvio non può fare tanti tuttupa, se no non possiamo dare. Pensate che è talmente emozionante questa domenica di notizie che stanno giocando a Parma Spal in questo momento. Ovviamente 0-0. Per gli amici a casa che ascoltano il calcio. Ce l'abbiamo la notizia che ci ha salvato e svoltato la giornata. Ci ha svoltato il blocco e la giornata. Domenica 26 agosto 2018, il Post, nella sezione Scienza, scrive: provate a spezzare uno spaghetto in due. Bene. Scienza. Scienza. Scienza. Come denunzia. Esatto, bravo, bravo. Provate la zeta dolce. Esatto, bravo, bravo, bravo. Provate a spezzare uno spaghetto in due. È più difficile di quello che sembra. La storia di un grande dilemma della fisica che inizia col fallimento di un premio Nobel. Ma davvero? Quale sarebbe il dilemma? A quanto pare, uno spaghetto crudo, attenzione, se viene piegato tenendolo per ognuna delle sue due estremità, quindi non vale tenerlo al centro, si spezza in tre o più parti, quasi mai in due, quasi mai. Provateci o fidatevi. Potresti andare sopra a prendere un pacco di spaghetti. Ora li spezziamo tutti da 500 grammi. Io mi ricordo che voglio farlo adesso. È l'argomento di discussione. Io scriverei alla Gran Oro per chiederlo. Sì. Ma come bisogna, cioè bisogna piegarlo? La tecnica, spiegaci bene la tecnica, Pisa. Cioè, allora, se vengono piegati. Qua dice una cosa strana, perché molti altri oggetti con la stessa forma, per esempio una matita o un bastoncino, se piegati in modo simile si spezzano in due. Anche lo spaghetto in tre, anche lo spinello se spezzi in due e rese grazie e ti spacco la faccia. Io però, capito, perché non sono d'accordo. Vai. La sigaretta si spezza in due per costruire lo spinello. Vai, e quindi soltanto poche settimane fa dei ricercatori del MIT, che Silvio sta per madre ingrata transessuale, bravissimo, sono riusciti a spezzare degli spaghetti in due al MIT. Cioè, quindi hanno si vede che era agosto. Lo hanno fatto veramente. Ma scusa, io voglio un video di questa impresa. Ma c'è gente che prende soldi. Ma c'è gente che prende soldi per queste ricerche. Si chiama ricerca di base, ragazzi. Ed è bellissimo. È come il medico generico. È quasi come il posto statale. Cioè, stiamo proprio. Continuando. A quanto pare ha avuto anche delle pubblicazioni questa storia. Addirittura. Quindi, sembra una storia buffa, ma lo studio pubblicato sull'autorevole rivista del Proceeding of the National Academy of Sciences. Yes. Risolve un problema di cui anni fa si occupò senza successo anche il noto fisico Richard Feynman. Famosissimo Richard Feynman. Quindi vabbè, i soliti articoli del Post sono lunghi 6 km. Andiamo direttamente al video, in cui c'è un appare, c'è un'immagine del MIT con un affare millimetrato, misurato, sì, fantastico, preciso, che spezza gli spaghetti in due. E quindi è un'ottima ricerca. Dopo questa ricerca, io voglio andare immediatamente a casa a spezzare gli spaghetti. Ci sono anche dei video. Secret of snapping spaghetti, come direbbero loro. Spaghetti pomodoro. No, scusate, ma io dobbiamo chiudere qua. Io devo andare a casa a spezzare gli spaghetti. Anche tu a casa spezza uno spaghetto. Spezza spaghetti. I know you're gonna want me. Baby, song for any season. I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday. Some say, boy, you're always teasing. I think you best believe in. Why you gotta drive me crazy, baby? Song for any season. Season. I think you best believe in why you gotta drive me crazy. I know you. a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you're gonna want me, but when you want me, it might be a different story. You got wanna want me. Era un pezzo del 2006, questo molto bello, mi piaceva tantissimo. Una canzone tiga. Tiga, una canzone molto tiga. Tiga. Questa è sempre di Location 2.0. Siamo alle battute finali, l'ultimo blocco della, di questa puntata. C'era una notizia flash che volevi dare tu, Pisani, quella su Tiger Woods. Ah sì, ho letto che Tiger Woods è tornato a giocare a golf. Sì. Ha finito di scopare. Eh beh, è una buona notizia questa. Se vi siamo piaciuti, ascoltateci. Se non vi siamo piaciuti, ascoltateci, miglioreremo. Esatto. Volevo, anche se qualcuno ci sta dicendo che, qualcuno ci sta dicendo che siamo bravi. Qualcuno ci sta dicendo che siamo bravi. Il numero di telefono di Jerry Calà ve l'abbiamo dato. Potete contattare lui e si metterà in contatto con noi per ringraziarci. Per ringraziarci, esatto. Ringraziarci, ringraziarvi. Fino a poco tempo fa la sua foto su WhatsApp era di lui in acqua, ovviamente, con l'acqua a mezza faccia, credo, no? Di avervelo anche girato io, tipo sì. Squalo, proprio, sì. Ma il naso era pulito? Ah, non so, no, perché non questo, sempre le fotografie di Jerry Calà, sì, c'era quella grande, c'era lui quel... si fa degli impacchi, dei bagni per, per lavare i canali. Insomma, l'avete capito, era un nostro idolo e lo rivogliamo. Jerry, torna con noi, ci manchi. Vi ricordate di quell'epoca che fu? Torno alla parte giusta della barricata. Ma... detto questo, vi salutiamo, noi siamo i Redeem, ci risentiamo alla prossima puntata. Da Zazzone, Silvius, Pisani e il buon Nico Cappello alla regia. Ciao!